subito diamo la, do la parola a De Sanctis. Dunque, io ringrazio Pierangelo Schiera per avermi invitato e anche per avermi spostato al primo posto, perché devo partire in mattinata e devo stare stasera a Roma. Se mi è concesso un secondo, vorrei spiegare un po' questa come è nata questa mia relazione e anche il suo carattere abbastanza provvisorio. La relazione è nata per l'invito che mi ha fatto Pierangelo e su un tenue programma di letture estive che dovevano riguardare appunto questi due autori, Tener e Nan, di cui oggi qualcosa vi dirò. Se non che in queste letture estive mi sono accorto che in relazione anche un po' ai miei studi che sono stati prima di argomento tedesco, appunto Stein, Mohl, Riehl, Treitschke, il problema della scienza sociale, della riforma, poi di ambiente francese, in particolare Tocqueville, mi sono accorto che in fondo questi scrittori mi davano un po' poco e davano anche un po' poco alla linea seminariale. Allora ho avuto anche un attimo un problema se ritornare su qualcuno dei temi più vicini al nostro seminario oppure continuare dopo tante letture a lavorare su questi autori. Alla fine ho deciso per questa seconda ipotesi, però cercando di inserirli in una linea di cui ora non vi racconterò tutto, perché appunto spero di riuscire a fare almeno le cose che mi propongo entro dei limiti di tempo ragionevoli, ma di ricostruire un po' una linea del pensiero storiografico francese a partire da Guizot a arrivare appunto a Renan e Taine, su questo parametro, diciamo, patologia-terapia, in cui cioè il problema rivoluzione appare al pensiero storiografico come il punto di partenza per considerare i mali, tra virgolette, della Francia, mali che potrebbero essere corretti in funzione di una riforma essenzialmente politica della Francia. C'è scarsa attenzione al problema sociale nel senso tedesco della parola, cioè alla questione sociale in questi autori. Il liberalismo francese è un po' disattento su questi problemi, soprattutto è disattento dal punto di vista istituzionale rispetto a questi problemi. Quindi ho tentato di ricostruire questa linea toccando questi autori, Guizot, Tocqueville, Michelet, Quinet, Taine e Renan. Perché? Perché ho creduto di vedere, ma probabilmente questa tesi è un po' anche troppo fresca per essere ben argomentata fino in fondo, ho creduto di vedere una sorta di degenerazione della dottrina liberale nel momento in cui questa dottrina tenta di sbarazzarsi del primato dell'etica. Nel momento in cui all'etica si sostituisce la scienza, come la intendono sia Renan che Taine, si può dire che il liberalismo si avvicina a qualsiasi altra teoria di tipo utopistico, materialistico, socialistico, comunistico, come si vuole, in una possibile genealogia dei dispotismi di massa del XX secolo. Quindi, diciamo, il parametro resta questo: male, malattia, cura, terapia, riforma come terapia. Il primo autore, come vi dicevo, è Guizot. Vi riassumo brevissimamente il punto, cioè Guizot, perché parto da Guizot? Perché Guizot nel 1849, in un libro intitolato Della democrazia in Francia, fa il punto sulla crisi francese e sul male che affligge la Francia. Qual è questo male che affligge la Francia? L'ideologia, l'idolatria democratica. Che cosa intende per idolatria democratica Guizot? Perché Guizot è convinto che la rivoluzione ha creato una società democratica. Ma democratica per Guizot significa una società in cui non esistono più differenze ascrittive di tipo sociale, in cui cioè tutti quanti sono uguali davanti al diritto civile. Società democratica, per essere fisiologica e non patologica, deve produrre una nuova aristocrazia. Quindi la patologia è una malintesa democrazia, dove, dal punto di vista politico, che cosa avviene? Avviene che le classi si lottano per un'egemonia totale, mentre le classi, per Guizot, devono, in un certo senso, emergere a livello politico in una pluralità che restituisce le componenti storiche della società francese. Quindi la politica deve essere il luogo di rappresentanza come creazione di una volontà politica che la società civile non è in grado di produrre, e deve essere gestita in una bipolarità tra due grandi partiti, uno che rappresenta le forze della conservazione e uno che rappresenta le forze del movimento. Lorenz von Stein ha preso molto da Guizot nella sua visione sia dell'aristocrazia e della democrazia, in un saggio molto bello che Lorenz Stein ha scritto, rifacendosi apparentemente più ad Aristotele, ma di fatto, secondo me, la lezione di Guizot che sta al fondo, sia nella Geschichte, nella famosa Geschichte, in cui ricostruisce appunto l'emergere della borghesia soggetto storico del mondo moderno. Quindi la terapia per Guizot è un governo misto per divisione non dei poteri, non in relazione alle funzioni, ma in relazione proprio al potere, alla cosiddetta sovranità. Dall'altro lato invece Tocqueville che invece non crede alla possibilità di restaurare alcun tipo di aristocrazia, perché la democrazia è uno stile di vita completamente diverso in cui nessun tipo di minoranza potrà governare. Per Tocqueville però l'aristocrazia è fortemente normativa, l'aristocrazia è una razza a parte, la democrazia produce una omogeneizzazione antropologica. Non è più possibile nessun tipo di aristocrazia, tantomeno l'aristocrazia dei meriti per la gestione politica. E anzi lui vede il governo misto come un governo in situazione di transizione, di crisi, di rivoluzione o di dissoluzione. Se per Guizot quindi il punto di riferimento è l'Inghilterra, come per buona parte del liberalismo francese, dottrinario in particolare, per Tocqueville invece l'Inghilterra non è niente altro che una transizione a democrazia all'infinito. Non può essere più un modello per la Francia che ha fatto una rivoluzione democratica. Il problema della patologia francese allora dov'è per Tocqueville? Il problema della patologia francese è nell'incapacità di liberarsi dal dispotismo di marca assolutistica. La rivoluzione ha eretto una barriera di rimozione, potremmo dire, tra le istituzioni assolutistiche e le istituzioni del regime nuovo, per cui i germi patogeni del dispotismo passano inosservati in questo nuovo regime. L'unica possibilità di riforma quindi è il ritorno, questo è molto chiaro, Tocqueville nei discorsi immediatamente prima la rivoluzione di febbraio e dopo la rivoluzione di febbraio, soltanto nel ritorno ai principi dell'89. Socialismo e comunismo per Tocqueville sono caricature grottesche dell'ancien régime, anche quelle. Quindi tutta la storia centralizzatrice. Direi che Tocqueville in parte assolve i giacobini, perché sono ancora mossi da grandi passioni politiche, ma da Napoleone ai socialisti, da Napoleone al comunismo, la linea è un recupero di logiche assolutistiche, centralizzatrici ed omogeneizzatrici, di cui la coscienza politica francese non ha chiarezza di ripetere vecchi schemi. Quindi in questo, secondo Tocqueville, si annida la patologia francese. Per quanto riguarda invece Michelet, che scrive a cavallo della rivoluzione del 48 la sua storia, il problema fondamentale è non aver dato il peso giusto al terzo principio della rivoluzione. Il problema correttivo, terapeutico, è tutto nel riequilibrare l'individualismo che è contenuto nel principio della libertà al socialismo che è contenuto nel principio dell'uguaglianza, con la fraternità. Ecco, la fraternità è il luogo in cui la rivoluzione si è emancipata dal cristianesimo, perché ha riabilitato una fraternità in positivo e non in negativo nella colpa. Quindi tutta la, uso questo termine forse anche un po' artificioso, tutta la terapia di Michelet è orientata in questa mediazione tra individualismo e socialismo sulla fraternità, tra gli uomini, che egli vede nascere e perire nella rivoluzione in un brevissimo periodo di tempo, tra l'89 e il 90, con la festa delle federazioni. Già il giacobinismo impone, secondo Michelet, una fraternità dall'alto, e una fraternità non può essere imposta. Quindi anche qui noi abbiamo questo principio etico che con Quinet diventa addirittura un principio religioso. Cioè il problema della patologia francese per Quinet è di non essere riuscita a metabolizzare attraverso trascendenza la nuova libertà. Cioè la libertà che la rivoluzione francese ha voluto stabilire nel mondo è una libertà che si è completamente emancipata da ogni principio trascendente, ha, se vogliamo, secolarizzato acriticamente la religione e quindi non riesce a radicarsi. Questo è il male per Quinet che travaglia la società francese. Lui addirittura nelle prime pagine dice che si è avvicinato a questa storia alle piaghe della Francia con pietà di figlio. Quindi c'è questa visione sempre della malattia, della salute, della patologia, della terapia. Ecco, direi che questa è un po' la linea che io ho tracciato facendo naturalmente una selezione di autori. Una selezione di autori che mi dava appunto da un lato la dimensione liberale in una polarità tra statalismo ghisottiano e antistatalismo, se volete associazionismo tocquevilliano, e dall'altro lato i repubblicani con un principio popolar nazionale, se così si può dire, alla Michelet, contrapposto invece al principio religioso fondamentalmente di Quinet. Qui bisognerebbe fare tutto il discorso, ma è troppo lungo, anche del problema cattolicesimo-protestantesimo, che è un problema molto importante per tutti questi storici, a partire da Guizot, che peraltro veniva da un'educazione, da formazione protestante, ma per Quinet in particolare lui vede la riuscita della rivoluzione inglese in relazione al principio religioso della rivoluzione inglese e la non riuscita della rivoluzione francese per la mancanza appunto di un principio religioso. Temi questi che percorrono in fondo anche, se vogliamo, l'ancien régime di Tocqueville, quando lui fa il parallelo tra le rivoluzioni e vede appunto la rivoluzione francese come essa stessa una rivoluzione, una religione, e quindi come la fonte di nuove credenze, la fonte di nuove religioni, di nuovi martiri, di nuova propaganda e così via. Queste diverse diagnosi elaborate a partire da una serrata critica al presente che la cultura storica francese produce tra la prima e la seconda metà dell'Ottocento, e che ho scelto per la loro polarità intrinseca rispettivamente alla dimensione liberale Guizot-Tocqueville e repubblicana Michelet-Quinet, entrambe aliene da ogni tentazione utopistica, da ogni simpatia cattolica o socialista, queste diverse diagnosi, dicevo, hanno tutte in comune il primato dell'etica. L'uomo, per la dignità peculiare della sua posizione nella storia, è, più della grandeur della nazione che pure li preoccupa, Michelet, Guizot, lo stesso Tocqueville, pensiamo al Tocqueville ministro degli esteri, sono molto preoccupati da questa dimensione, però il centro delle analisi e delle prognosi delineate resta l'uomo. Ed è soprattutto in funzione di questa dignità riassunta nei diritti fondamentali che la rivoluzione e il presente da essa generato vengono giudicati più o meno legittimi nelle loro pretese di emancipazione o di potere. Alcuni di questi luoghi comuni a tali critica li troviamo anche in altri due storici, Renan e Taine, i quali, pur se differenti per finezza e interessi di fondo, sono accomunati da una profonda fede nel potere esoterico della scienza, su cui giocano tutto quanto hanno disinvestito da altri valori. Tener Nan, pertanto, possono ben rappresentare, dopo il trauma della Comune di Parigi e la disfatta militare della Francia, due casi esemplari di liberali delusi che nuovamente si rivolgono con occhio clinico alle malattie della Francia, riproponendo la rivoluzione come il fulcro delle loro diagnosi e della possibile terapia. Nella riforma intellettuale e morale della Francia, l'approccio alla storia contemporanea francese di Renan in termini di patologia e terapia è esibito anche nell'intitolazione delle due parti in cui il libro si divide. La prima parte si chiama Il male, la seconda parte si chiama I rimedi. Il parametro da cui va dedotta innanzitutto la gravità del male, per Renan, è il grado di sordità alla vocazione nazionale. Le nazioni infatti si distinguono proprio in base alle diverse vocazioni. La Francia, per Renan, è chiamata dalla sua storia all'eccellenza intellettuale e alla gloria militare. Rispetto a tale vocazione che ne definisce la fisiologia, il male è la democrazia, che inibisce la seconda, cioè la gloria militare, e insieme con il cattolicesimo gretto intralcia la scienza. La democrazia è patologica perché rappresenta il trionfo del livellamento nella mediocrità, il rifiuto preconcetto di ogni tipo di aristocrazia. Riassumo un po' i temi. L'idolatria del benessere materiale e dell'agiatezza è pertanto il disprezzo del sacrificio. Lo svuotamento di ogni autorità è quindi l'insofferenza per l'obbedienza. Essa non può che produrre socialismo nella città e mollezza nelle campagne. Il massimo che ci si può aspettare da una società democratica, purché sufficientemente ricca, è l'individualismo americano. Perciò la democrazia mette in luce la questione sociale e svaluta la questione nazionale. Qui sembra di risentire cose che scriveva Treitschke quando criticava la scienza della società di Mohl. E mentre quest'ultima, secondo Renan, ha una sua ragion d'essere che si lega strettamente al destino della Francia, cioè la questione nazionale, la questione sociale gli appare invece come epifenomeno della malattia democratica, che privilegia una visione materialistica ed economicistica della realtà sociopolitica, legittimata dalla piattezza borghese da un lato e dalla chimera socialista dall'altro. Diversamente da Guizot, di cui peraltro proprio nella Réforme condivide una serie di valutazioni sulla storia della civilizzazione francese, Renan non manifesta alcuna simpatia per la borghesia, ma il suo disprezzo non ha nulla dello sguardo disincantato con cui Tocqueville osserva l'uomo moderno. Il disprezzo di Renan è tipico del piccolo borghese che si sente aristocratico per i suoi meriti intellettuali, ai quali vorrebbe si riconoscesse potere politico oltre che prestigio morale. Anche se l'aristocrazia a cui pensa Renan a volte torna ad essere proprio l'antica nobiltà feudale che si tramanda per nascita il diritto di comandare nella società e nell'esercito. Anzi, e questo mi sembra un punto abbastanza di originalità polemica, capovolgendo la visione ormai fattasi tradizionale da Locke a Montesquieu, da Thomas Paine a Benjamin Constant, Renan considera feudalità e guerra creatrici e garanti della proprietà e della ricchezza. E qua porto una serie di citazioni contro l'economia politica. Francia e Inghilterra, come si potrebbe dire come ideologia, Francia e Inghilterra, secondo Renan, devono la loro decadenza alla ipertrofizzazione dell'economico, frutto della rimozione del significato anche economico delle virtù guerriere, della rimozione cioè del vero fondamento storico della ricchezza nazionale. A questa rimozione ha contribuito il contrattualismo, che considera oggetto di scambio ciò che per sua natura, cioè lo Stato e la nazione, è indisponibile all'arbitrio dei singoli. Oltre che fondato nelle sue convinzioni ideali, il giudizio di Renan sull'economia politica, sul contrattualismo, sul socialismo, sulle classi sociali che si contendono il primato nella democrazia, sull'edonismo borghese, la grettezza contadina, il cosmopolitismo operaio, è anche funzionale alla scelta del nuovo modello per la Francia, che non è più né l'America né l'Inghilterra, bensì lo Stato prussiano, perché campione di germanesimo. Tutti i vizi patogeni fin qui ricordati, e particolarmente le loro legittimazioni ideologiche, socialismo, contrattualismo, economicismo, appaiono a Renan una sorta di rivincita all'interno delle grandi nazioni europee di origine germanica, come la Francia e l'Inghilterra, delle razze assoggettate dai germani conquistatori, rispettivamente i gallo-romani del Midi francese e i Celti della Gran Bretagna. La razza germanica ha invece imposto il vero diritto, quello che si fonda sulle virtù militari e sul coraggio. Perciò è anticontrattualista, disprezza il benessere materiale, È umoralmente antisocialista, ma in senso inverso agli americani, perché è monarchica e nobiliare e non perché è democratica e repubblicana. Oltre a questo, naturalmente, in Renan c'è tutta una valutazione positiva della riforma luterana, perché la riforma luterana, attraverso la lettura del libro, cito, ha in un certo senso promosso la cultura in Germania, mentre il cattolicesimo ha depresso la cultura in Francia. Questo direi che è un altro luogo comune che Renan ripercorre. Fatta la diagnosi con l'ausilio di un'anamnesi da cui si evince essenzialmente l'impossibilità per la Francia di disfarsi della monarchia, la terapia di Renan, sgombrato il campo dalla questione sociale, considerata essenzialmente come imputabile a un difetto di leadership, si concentra sull'assetto politico e su quello educativo e formativo. L'unica vera cura proposta per la questione sociale è una agguerrita politica coloniale. Assolutamente legittima poiché, scrive Renan, la rigenerazione delle razze inferiori o imbastardite da parte delle razze superiori è nell'ordine provvidenziale dell'umanità. A suo avviso, infatti, l'uomo del popolo, nelle società europee, è quasi sempre un nobile declassato, più adatto alla guerra che al lavoro, per il quale invece esistono razze predestinate. Cito, la natura ha fatto una razza di operai, i cinesi, una razza di lavoratori della terra, i negri, e poi una razza di padroni e di soldati, gli europei. I rivoltosi europei non sono altro che soldati cui è mancata la possibilità di obbedire al proprio istinto razziale. Ciò che rivolta i nostri lavoratori, leggiamo nella Reform, renderebbe felice un cinese, un fellà, esseri che non sono in nulla militari. Per quanto concerne specificamente la riforma costituzionale, Renan propone un sistema bicamerale, in cui la prima Camera dovrebbe essere espressione dei cittadini uti singoli, con un suffragio universale, purché indiretto. Il padre di famiglia può rappresentare la moglie e tutti i figli, anche secondo Renan. Quindi lui, secondo lui, così ampliava la base di rappresentatività. La seconda Camera, invece, avrebbe dovuto rappresentare tutto ciò che è un'individualità nello Stato, configurandosi come un corpo conservatore di tutti i diritti e di tutte le libertà. Al di là di questa proposta non troviamo altro nella Reform. Anche per il capo dello Stato, Renan lascia intendere che lo preferirebbe non elettivo e appartenente alla dinastia dei re francesi. Sul piano educativo invece troviamo il primo appello veramente sentito dallo storico bretone alla libertà, limitata però alla sfera scientifica e alle università come uniche depositarie della scienza. Fa una piccola carrellata su altre libertà possibili e dice che con istituzioni molto forti, secondo lui, si può lasciare la libertà di stampa. Va assolutamente abolita la libertà di associazione perché è inutile, e il decentramento amministrativo, che è una vexata questi ormai ha quasi vinto, dovrebbe essere limitato a che l'impero, usa questa espressione se non mi ricordo male, non si dissolva. Sul piano educativo, dicevo, invece c'è l'unico appello alla libertà, nelle università, come dicevo, che egli vorrebbe restituite all'antica autonomia medievale e dotate anche di rappresentanza nella Camera Alta. A questa libertà, peraltro, egli è pronto a sacrificare tutte le scuole superiori, come la normale, la politecnica e le università libere che considera inutile concorrenti, ma soprattutto l'istruzione primaria, che lascerebbe al clero cattolico purché liberalizzato, mentre della secondaria potenzierebbe l'aspetto scientifico a scapito di quello letterario. I titoli conferiti dall'università, in cui si insegna e si apprende il rispetto per i valori dell'alta cultura, sarebbero così dei veri e propri, cito, titoli nobiliari, spettanti ai pochissimi privilegiati capaci di scienza. E qui esprime ancora l'ammirazione per le università tedesche, definite foyer di spirito aristocratico, reazionario e quasi feudale. In università di questo tipo, cito, lungi dall'essere portata ad abbandonare la cosa pubblica ai capricci della folla, una generazione allevata a quei principi sarà gelosa di mantenere i privilegi della ragione. L'unica fede che resta a Renan è pertanto la fede nella scienza, in cui egli ha trasferito tutto il misticismo e il fervore che ha disinvestito dalla religione. Non soltanto la scienza assicura la vita eterna a chi la pratica e la serve, ma assicura anche la resurrezione nel mondo in cui, attraverso la sua opera, Dio stesso ritornerà ad abitare l'universo che la scienza gli avrà preparato, interpretando il suo volere. La resurrezione finale, leggiamo in uno scritto del 1863, Si farà attraverso la scienza. La riforma scientifica dell'universo è opera appena cominciata, affidata alla ragione. Se poi prendiamo i Dialogues philosophiques, scritti a caldo dopo i fatti del 71, così ci appare il risultato finale di questa riforma. L'universo sarà concentrato in un solo essere organizzato, nell'infinito del quale si riassumeranno decilioni e decilioni di vite passate, presenti e presenti insieme. Tutta la natura vivente produrrà una vita centrale, grande inno sorgente da mille voci, come l'animale risulta da miliardi di cellule, l'albero da milioni di gemme. Una coscienza unica sarà comune a tutti e tutti vi parteciperanno. L'universo sarà un infinito polipaio in cui tutti gli esseri esistiti saranno saldati insieme, vivendo contemporaneamente di vita propria e della vita dell'insieme. Il segreto della costruzione da parte della scienza di questo mondo felice sarà il sacrificio e l'immolazione dell'inferiore al superiore, posizioni stabilite scientificamente e quindi irrevocabilmente, siano essi specie, razze o individui, dall'animale sacrificale o da vivisezione al suddito di Kefrem che, morendo nel costruire le piramidi per Renan, ha vissuto più di colui che ha lasciato scorrere i giorni inutili sotto i suoi palmizi, ai negri, fatti, scrive Renan, per servire alle grandi cose volute e concepite dai bianchi. Così la scienza costruirà la casa di Dio, riprendendo l'opera là dove la natura si è fermata e portandola a compimento con l'ausilio di un regime in cui la forza della ragione potrà finalmente imporsi sui popoli e sugli individui ribelli alla verità, sui primi con il terrore assoluto di un'arma finale, sui secondi con la morte immediata. In tale mondo, sognato da Renan come frutto della riforma scientifica, si compirà il perfezionamento del mito della vendetta degli dèi. Quella era ancora imperfetta. Qui, invece, le sanzioni della legge scientifica saranno infallibili e spietate come la natura. Anche per Taine, il problema attorno a cui si sviluppa l'idea e la realizzazione delle origini della Francia contemporanea è essenzialmente un problema di clinica storica. Ma nel passaggio dalla coinè spirituale di Guizot, Tocqueville, Michelet, Quinet a quella di Renan e Taine, si annetta l'impressione che l'organicismo che sorregge il lessico diagnostico-terapeutico passa dalla metafora all'analogia. La corrispondenza tra natura e società si fonda su un meccanismo omogeneo di forze fisiche, chimiche e psichiche che agiscono e interagiscono, determinando le cose e gli esseri trascinati nel movimento necessario della realtà effettuale che, naturale o storica che sia, va osservata, descritta e spiegata con lo stesso metodo. Pertanto, allorché Taine in una lettera a Havet del 1878 definisce il lavoro che sta compiendo alla stregua di, cito, un consulto di medici al capezzale della Francia, finita la citazione, va preso molto sul serio. Ma c'è un altro aspetto dell'opera di Taine, zoologo e botanico della storia, come ama definirsi, un aspetto che si sovrappone e in parte contraddice l'atteggiamento clinico che sa distinguere salute da malattia, che dalla diagnosi sa passare alla terapia, che crede nella possibilità della guarigione ed opera per conseguirla. Un atteggiamento che troviamo immediatamente nelle origini, sotto forma di confessione autobiografica. Non riuscivo a capire, egli scrive a proposito del diritto di voto attribuitogli nel 1849, come in politica ci si potesse decidere sulla base delle proprie preferenze. E più avanti specifica meglio. Le nostre preferenze sarebbero vane. La natura e la storia hanno già scelto per noi. Sta a noi adattarci a esse, perché è sicuro che esse non si adatteranno a noi. La forma sociale e politica nella quale un popolo può entrare e restare, e sottolinea restare, non è affidata al suo arbitrio, ma determinata dal suo carattere e dal suo passato. Da questo ulteriore punto di vista, la Francia che passa con la rivoluzione dal regime antico a quello moderno, più che portatrice di una semplice malattia o alterazione organica, contro cui sarebbe ancora possibile giocare la chance terapeutica, è soggetta a una vera e propria metamorfosi, nel corso della quale la rivoluzione rappresenta il punto di transizione e di non ritorno. E la riforma sociopolitica, invece, è l'occasione mancata nell'89 e quindi mancata, cito, ben 13 volte in 80 anni. Antico regime, rivoluzione, nuovo regime, allora sono i tre stadi che la Francia attraversa per liberarsi dalla forma feudale ed acquisire quella moderna. La metamorfosi imposta dalla modernità al mondo occidentale aggredendo in Francia le strutture più intime dell'organismo sociale, esige un atteggiamento da entomologo. Cito: «Io mi sono posto davanti al mio soggetto come davanti alla metamorfosi di un insetto». Quello che Ten definisce lo sboccio della modernità gli appare un fenomeno universale e quasi simultaneo. Ma la peculiarità della Francia, in cui gli sembra di poter cogliere il gene patogeno che inquina la nuova forma dell'insetto, impedendole la stabilizzazione, è l'astratta progettualità, in base alla quale essa, sin dall'inizio, pensa la nuova Costituzione. E qui direi che Ten introduce una nuova serie di similitudini. La similitudine è Costituzione-casa. Come la casa non può essere progettata in astratto dall'architetto, ma deve essere in un certo senso, secondo Ten, ma deve essere vissuta dall'interno, dal proprietario, così anche la Costituzione. Per cui la riforma diventa il restauro del vecchio edificio. Sono molte figure nelle origini in cui Ten parla di questo restauro, un restauro che a volte deve essere addirittura archeologico, vale a dire deve arrivare all'edificio centrale portante di tutta la storia di una nazione. E dice che le nazioni che resistono alla modernità sono le nazioni che hanno usato questa logica restaurativa, in primis la Germania naturalmente. Anche Ten è un ammiratore della Germania e del regime tedesco. Vi riassumo un po' quest'ultimo pezzo, cioè le origini vogliono essere una spiegazione al lettore di come arrivare ad un giudizio politico ben orientato, sono 11 volumi, ad un giudizio politico ben orientato. Il buon orientamento dipende appunto dall'esser sicuri che il parametro di partenza è assolutamente scientifico. Diciamo un altro punto importante è quella che Ten chiama la rivoluzione della storiografia e il passaggio dalla storiografia alla scienza. Due passi sono importanti secondo Ten in questo passaggio. Il primo passo l'ha compiuto la Germania, con da Herder in poi. Il secondo passo spetta alla Francia. I padri di questo secondo passo sono per Ten Stendhal e Sainte-Beuve. Il secondo passo consiste nel passare dalla storia esteriore, in cui i tedeschi sono stati maestri cogliendo l'uomo nella sua realtà quotidiana, alla storia sotterranea, dice Ten. Cioè l'anatomia di questa nuova scienza sarà la psicologia. Ma una psicologia, questo è importante forse sottolinearlo, una psicologia per la quale il vizio e la virtù sono uguali allo zucchero e al veleno. E quindi sono soltanto dei composti che bisogna scomporre nelle forze meccaniche elementari. Con questo strumentario metodico, Ten affronta il lungo cammino delle origini, dal punto di vista storico, e sarebbe un po' difficile restituire tutto questo cammino complesso, molto affascinante, direi dal punto di vista oltre che informativo, anche letterario, veramente notevole. Comunque il capolavoro, a mio avviso, di Ten resta la delineazione dell'esprit classique. L'esprit classique che poco alla volta pervade lingua, letteratura e mentalità, diventa lo stile in base al quale si costruisce la frase, la casa e la città. Uno stile che stabilisce i parametri della ragione con cui i francesi iniziano a pensare l'uomo e la sua storia. Questo stile, che nella forma neoclassica voluta da Napoleone, disegnerà con il regime moderno tutti gli spazi della vita istituzionale francese ad immagine dell'architettura e della letteratura classica, già nel Settecento permea ogni aspetto della vita culturale e sociale delle classi dominanti, debordando in un'oratoria persuasiva e semplificatrice, sempre preoccupata del consenso del pubblico, e che omogeneizza il teatro al salotto, ma la cui pericolosità, dice Ten, si vedrà soltanto nelle piazze, quando si impadronirà dell'immaginario della folla. Avvalendosi della sua erudizione letteraria, Ten segue la lingua francese nel suo passaggio nello stampo classico. Essa gli sembra subire un'epurazione crescente, una citazione questa, di tutte le parole esatte, nel vuoto lasciato dalle quali si espandono i significati semplificanti di espressioni generiche. Il francese diventa una lingua comoda per un'attenzione pigra. La poesia si insterilisce, ma in compenso, ironizza Taine, più si sfronda, più si chiarisce, mettendo a disposizione di tutti anche le cose più complesse. Questa lingua diventa l'organo di una certa ragione, che Taine chiama la ragione ragionante, quella che vuole pensare con la minima preparazione e la massima comodità possibile, che non sa o non vuole abbracciare la pienezza e la complessità delle cose. Dunque, lo spirito classico è limitato e semplificante, è un'astrazione svuotata da ogni contenuto, una forma vuota, produce superficialità, poiché si limita a scalfire la scorza dei fatti, e parzialità, poiché coglie solo piccoli frammenti di verità, con cui pretende di riprogettare l'intero mondo. Ma l'abbaglio più pericoloso, lasciato in eredità dall'epoca classica alla rivoluzione, che avrebbe provocato poi una catena di principi essenziali per l'assetto socio-spirituale, è per Taine l'identificazione che lo spirito classico ha operato tra sé e lo spirito umano. Sul presupposto di tale identificazione, l'uomo in generale, astratto da ogni contesto di razza, ambiente e momento, viene creduto il luogo aurorale delle qualità morali dell'âge classique. E di conseguenza l'uomo quale effettivamente è viene considerato ragionevole e perfino buono per natura. L'uomo che lo spirito classico delinea come naturale non è altro che la silhouette dell'honnête homme, ossia il tipo umano prodotto dal salotto e per il salotto, la cui ragione di vita è intrattenersi piacevolmente e con eleganza su tutti gli argomenti gravi o leggeri che possono interessare uomini e donne di mondo. La ragione che questo tipo umano considera la guida decisiva della propria vita viene universalizzata a sua volta fuori dal salotto e considerata coriginaria all'uomo. La ragione invece per Taine è solo il fragilissimo ricamo successivo, la rete sottile e complicata che abbellisce il tessuto grossolano e resistente della natura umana. Questa è la linea della psicologia che parte da Ribot, passa per Binet e arriverà fino a Le Bon. Cioè che la parte civilizzata è la parte più esterna della costituzione, e quindi più fragile della costituzione psichica dell'uomo, per Le Bon è la parte che si perde immediatamente nel momento in cui l'uomo entra in un movimento di massa. Essa occupa una posizione subalterna alla ragione, nella costituzione psichica dell'uomo, è precisamente quella di un avvocato domestico sobillato che i proprietari impiegano per difendere i propri affari. Padrone della natura umana sono le forze brute endogene che si servono della ragione per legittimarsi. Esse sono occultate dalla normalità in cui si è abituati a vivere, ignorando che essa non è altro che il prodotto di una doppia repressione, una repressione interiore e una repressione esteriore. Taine usa molto il termine disciplina. Il disciplinamento interiore per Taine avviene attraverso i pregiudizi, che sono fondamentali. La rivoluzione, abolendo i pregiudizi, ha sradicato l'uomo dal suo terreno e poi aggiunge: la ragione non sa che per poter diventare praticamente operativa deve essa stessa diventare un pregiudizio. Ed è quello che in un certo senso, secondo lui, hanno fatto i giacobini. E poi c'è il pregiudizio, poi c'è il disciplinamento esterno che è affidato allo Stato, che è affidato allo Stato. E il tutto può funzionare su una molla finale, che vi leggo un attimo, che sta al fondo di tutti gli ingranaggi della struttura costituzionale di uno Stato, di antico o di moderno regime che sia. Tale molla è per Taine il gendarme armato contro il selvaggio, il brigante e il pazzo che ciascuno di noi racchiude assopiti o incatenati, ma sempre vivi, nella caverna del proprio cuore. La malattia allora è solo un aspetto normale della natura, allo stesso titolo della salute. Sono entrambe due diverse condizioni dell'equilibrio delle forze naturali. All'inizio del capitolo 10 del libro terzo della storia della rivoluzione, Michelet aveva scritto: «Il male, poiché è soltanto un'eccezione, un'irregolarità, esige per essere compresa una narrazione minuziosa. Il bene, invece, il naturale che va fluendo da solo, ci è quasi noto a priori, per la sua conformità alle leggi della nostra natura, per l'eterna immagine del bene che portiamo in noi. Questo atteggiamento fiducioso non è più praticabile dalla prospettiva scientista di Taine e Renan. A loro occhio esso non può che apparire di un classicismo naif». L'indicazione conclusiva che vorrei proporre sulla base di quanto esposto finora è la seguente. Nel momento in cui al fondo delle opzioni del liberalismo si sostituisce il primato della scienza a quello dell'etica, alla patologia francese si affianca la rassegnazione alla naturalità della malattia, da cui si produce una sorta di degenerazione dei connotati essenziali della dottrina. Talché lo stesso appello alla riforma o alla rigenerazione della Francia, come nel caso di Renan, risuona in uno spazio etico-politico completamente svuotato dai valori che avevano costituito la trama resistente che da Benjamin Constant a Guizot a Tocqueville, da Michelet a Quinet, aveva tenuto insieme gli orditi diversi ma concorrenti del costituzionalismo e della storiografia liberale e democratica francese. Anche il pluralismo linguistico, culturale, razziale e nazionale subisce una profonda torsione nel momento in cui alla fede nella dignità dell'uomo si sostituisce un assunto radicalmente relativizzatore dei valori, che però parte da un presupposto assoluto, la scientificità come verità del punto di vista che, proprio in quanto tale, è legittimato a relativizzare gerarchizzando, a ricreare una scala di valori e dignità sul parametro che la scienza decide essere ottimale, determinando in maniera irrevocabile i diversi destini, le supremazie e le subordinazioni di popoli, razze e nazioni. Nel momento in cui gli uomini sono equiparati, come li equipara Taine, alle piante o agli animali, il loro destino è identico a quello dei vigneti, la bontà del prodotto dei quali è assolutamente determinata dalla zona in cui crescono. La loro evoluzione è identica a quella dei corpi organici, la cui riuscita dipende essenzialmente dalle attitudini del tipo primordiale. La stessa etica del sacrificio e del dovere a cui Renan, nella sua veste da moralista, fa appello costante, trova il suo coronamento nella vittoria definitiva, citazione, del popolo che saprà adottarla e giovarsene. Questo popolo in genere è la Germania. Tale etica poi è vincolante solo per l'uomo comune, per la carne da cannone, la cui funzione è esclusivamente nell'immolazione per la gloria della nazione e per la potenza dello Stato. Per i migliori, per i geni, per i produttori di scienza, per coloro che prepareranno il trionfo oligarchico dello spirito, un'espressione nicciana fortissima che troviamo nei Dialogues philosophiques, e ne godranno da padroni, il discorso è diverso. Il loro egoismo e la loro immoralità è proprio il compimento naturale della vera moralità, impraticabile per la folla di uomini e razze inferiori. Nel momento in cui il liberalismo prende commiato dalla coinè spirituale che ha posto al centro del mondo etico-politico l'individuo e la sua dignità, esso è destinato a condividere con le teorie più eterogenee ideologicamente il determinismo, che confonde, ancorché scientificamente, la storia con la natura, la libertà anche della rivoluzione con la necessità, la giustizia con la violenza. In un momento di piena crisi di tutti i valori illuministici, allorché la ragione è costretta a mostrare sotto la maschera classica il volto nudo della follia, in un'atmosfera certamente più fascinosa e stimolante di quella del tardo umanismo e spiritualismo liberal-democratico, può accadere che la puzza di laboratorio che emana dalle origini della Francia contemporanea può anche espandersi come un gradevole profumo nel gulag planetario sognato da Renan, come approdo della riforma scientifica dell'universo. Bene, così siamo tornati nel mondo dei valori da cui il diritto ci aveva un po' ieri allontanato, che con questo recupero. Ecco, io apro la discussione su questa bella relazione di De Sanctis, anche se credo che sia difficile riuscire a entrare in questo percorso così, nello stesso tempo coerente ma complessissimo, che lui ci ha. Ci sono delle. Oh, benissimo. Fioravanti, Gherardi, Proto. Fioravanti, prego. Io intanto vorrei proprio esprimere quello che conta di apprezzamento della missione di Francesco De Sanctis, che ci mostra, secondo me, tramite la Francia anche un grande elemento di comparazione, che io vedo come strumento fertile di lavoro proprio perché propone al nostro seminario un terzo. tre regimi sono il secondo impero in Germania, la terza repubblica in Francia e l'età giuridiana in Italia. E sono per me, lo devo confessare, anche i tre luoghi storici nei quali c'è la grande fioritura della pubblicistica che ho studiato, con interazioni molto, molto costanti tra le tre. Per esempio Carré de Malberg in Francia, che è un uomo legato nel modo molto più prudente però a certe cose di Renan e di Taine, Carré de Malberg che costruisce su base tedesca, Orlando che traduce Jelinek in Italia, insomma, questi tre personaggi, Orlando, Jelinek e Carré de Malberg, sono secondo me sul terreno comune. Ora di tutto questo io voglio segnalare come anche in Francia le radici di questo siano prima, ecco, e secondo me le ha trovate molto bene Chrysanthis per quanto riguarda la Francia in Guizot, che è un personaggio straordinariamente affascinante, perché con Guizot nasce l'idea appunto che la Francia a causa della rivoluzione sia malata, cioè nasce l'idea del compito delle scienze sociali di guarire questo male. E che cos'è questo male? Ancora riprendendo cose che Chrysanthis diceva all'inizio, sta nella, in un certo modo, di intendere il principio democratico, che è distintivo dell'ordine di qualsiasi ordine, perché implica una lotta tra le classi per, lui diceva, lo dice forse anche Guizot, immagino, per il predominio totale, cioè è un sistema che abolisce la dimensione aristocratica. Non esiste, non può esistere alcun sistema politico senza la componente aristocratica. E allora qual è stato il male della rivoluzione? Il male della rivoluzione è stata quella di non aver riprodotto lo schema di rivoluzione che invece offriva la Glorious Revolution, cioè una rivoluzione non malata di astratta progettualità, una rivoluzione fatta per restaurare il diritto legittimo e non per creare razionalisticamente un diritto nuovo. Una rivoluzione che rimette in equilibrio la Costituzione e le sue componenti, ivi compresa quella aristocratica, no? Una rivoluzione che non è malata del mito della Costituente, perché poi secondo me tutti questi personaggi hanno questa avversione verso il mito della Costituzione. Ecco, quello che è interessante per me, quello che ho appreso, che sono sospettato largamente, è che da questo si finisce al modello prussiano. Questa è la cosa secondo me, nella seconda metà del secolo. E questa è la stessa cosa che accade in Italia, perché si parte da un anglismo, si diceva ieri, che c'è, cioè c'è il Cavour, voglio dire, c'è una certa classe politica e si finisce nel modello prussiano. E lo stesso accade, secondo me, anche in Germania, perché nella scuola storica tedesca vi erano forti venature di manghismo, che poi finiscono di nuovo, ovviamente, in quel caso, nel modello prussiano, secondo me, allora su questo credo vi debba essere una riflessione, su questo modello politico anglo-tedesco che si sviluppa lungo corso dell'Ottocento come punto di riferimento alternativo alla rivoluzione e al razionalismo, no? Un po' in tutti i regimi liberali e che si fonda su una chiave originaria anticontrattualistica, e sulla grande diffusione della parola organismo di questi regimi politici. A me appunto la chiave di lettura sembra questa, cioè c'è un'utilizzazione del modello di Milesi che non scompare affatto, Orlando ha delle pagine molto tarde, voglio dire, della piena maturità di adesione a questa idea della Glorious Revolution come rivoluzione che restaura, non va oltre il segno, no? E quindi sono temi comuni, voglio dire, europei. Secondo me, poi viene, per esempio, questo è legge la dichiarazione dei diritti francese dicendo non è frutto di Rousseau, del contrattualismo rivoluzionario, ma è frutto della tradizione britannica, e quindi tramite le dichiarazioni americane, cioè abbiamo questo diritto. lunga che tiene equilibrate le nuvole e quindi le prepara ad essere espresse nella grande sintesi dello stato che poi diviene quello che siamo. Naturalmente questo problema del modello francese che in effetti ritorna anche in Italia, anche se è sempre in negativo naturalmente, e proprio citando le opere, molte delle opere degli autori che tu hai citato, per esempio Ten è importantissimo per la cultura liberale italiana. Però a questo punto mi vengono da farti alcune domande, basta pensare appunto alla polemica che tutti il liberalismo italiano, soprattutto a cavallo fra gli anni 70 e 80, conduce contro, virgolette, lo spianatoio rivoluzionario, per dirla con Minghetti, di marca francese, e gli autori che tu hai citato, Ten in primo luogo, vengono ripresi costantemente. Però a questo punto mi viene da farti una domanda proprio in relazione a come gli italiani recepiscono questi francesi che tu hai citato. Cioè anche gli italiani fanno il discorso dell'etica e del primato dell'etica, eccetera, però hanno in mente un soggetto sociale ben preciso che deve farsi portavoce di questa esigenza, è la borghesia. La borghesia soltanto se saprà darsi carico di compiti, dei suoi più profondi compiti di carattere morale, allora solo a quel patto potrà mantenere il suo potere. Ecco, allora ti volevo chiedere, negli autori che tu hai citato, c'è questa preoccupazione precisa, cioè hanno in mente un soggetto sociale preciso dell'etica di cui loro parlano, o invece ne parlano soltanto così in astratto senza avere questo referente preciso? Primo problema. Secondo problema, tu hai parlato di una disattenzione, cioè questi autori parlano di riforma, se non ho capito male, sono abbastanza disattenti alla questione sociale. Allora, quando parlano di riforma, si mantengono sempre sotto un profilo soltanto costituzionale, di carattere costituzionale, parlano di riforme a carattere istituzionale, punto e basta, della questione sociale proprio non ne parlano. E poi ancora una volta, gli italiani però, soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, man mano che ci si avvicina a fine secolo, all'inizio del nuovo secolo, tendenzialmente fanno una differenza fra rivoluzione e rivolta. E i due termini rimangono indifferenziati negli autori che tu hai preso in esame? Grazie, Protto. Sì, anche a me pare molto importante il contributo di Francesco De Santis, poiché ci sollecita una riflessione sul ruolo che ha avuto la cultura politica in Francia anche prima della Terza Repubblica, sulla tematica della crisi del liberalismo in rapporto all'eredità della rivoluzione francese, ma apre anche parentesi importanti sui canali attraverso i quali si è stabilita uno scambio di culture tra la Francia e la Germania, tra la Francia e l'Italia. E qualche esempio credo si possa fare individuando alcuni intellettuali che hanno operato nel periodo della Terza Repubblica con ruolo di riformatori nel campo della politica e della scuola e dell'educazione. Penso in questo caso a Emilio Durkheim, il quale è stato il punto di riferimento fondamentale della riforma morale e culturale della Francia della Terza Repubblica. Ma non va dimenticato che Durkheim ha fatto il suo apprendistato scientifico nell'università tedesca e ha lavorato sui socialisti della cattedra, in particolare sul tema del rapporto tra etica e scienza sociale. Mirabili le sue recensioni a Schaeffle, a Wagner, e direi che si tratta di un capitolo ancora non ampiamente perlustrato. In lui poi questo tipo di problematica approderà ad una visione critica della democrazia, un esito di ascendenza corporativa che lo porterà poi a valorizzare i gruppi professionali in una revisione della riforma costituzionale francese. Ma un altro elemento importante che va sottolineato e che la Mangoni giustamente ha ritenuto opportuno segnalare all'attenzione degli studiosi che operano all'incrocio di aree intellettuali Francia, Germania e Italia, è quello dell'atteggiamento degli intellettuali, dei politici francesi, italiani, nei confronti del primo centenario della Rivoluzione francese. Ricorderai le pagine dedicate al ruolo avuto dalla Revue de Monde e all'atteggiamento assunto in questo senso. Il primo centenario dell'89 in Francia costituisce l'occasione nella quale questa eredità è sottoposta a un'esigenza di revisione profonda. Il rifiuto della rivoluzione come sovversione, la sussunzione del termine rivolta primitiva nei confronti degli obiettivi rivoluzionari e quindi la predisposizione dell'atteggiamento culturale verso la scienza come nuovo orizzonte sostitutivo del sussulto, del cambiamento brusco. E quindi appunto la scienza che diventa momento importante di riferimento di questa cultura politica e la scienza sociale come alternativa a una proposta di riforma in alternativa al movimento sociale. Ma per quanto concerne poi i riflessi italiani il discorso è importante, perché il primo centenario in Italia ha assunto dei connotati abbastanza negativi, perché la cultura italiana nell'89 intorno, giù di lì, non è stata particolarmente presente in questo dibattito, perché in realtà all'interno di quella cultura circolavano rivoli di entusiasmi filo-napoleonici, e Napoleone era l'alternativa alla rivoluzione, e quindi il decisionismo, e quindi l'autoritarismo, e quindi il cesarismo, con tutto ciò che all'interno dell'alveo del liberalismo italiano la presenza di questi elementi ha comportato. E allora, da questo punto di vista, quindi, il discorso diventa abbastanza importante. Un ultimo codicillo per Renan, brevissimo, per Renan. Ecco, forse questo personaggio andrebbe un po', non dico rivalutato, ma riletto. Perché è vero quello che dicevi su questa sua difficoltà a saldare nel liberalismo, nella tradizione liberale francese, le due dimensioni, eccetera, tra etica e scienza. Però non dimentichiamo la fortuna di Renan in certi momenti, in certi aspetti della cultura progressista italiana. Penso soprattutto a buoni aiuti nel campo degli studi sul cristianesimo, la rilettura della vita di Gesù, degli apostoli in particolare, molto importante il discorso su Renan. Un ultimo codicillo, è il discorso sulla riforma morale e intellettuale. Gramsci richiama Renan. Grazie. Io volevo fare un'ultima battuta brevissima su questo problema. Gli autori di cui tu hai parlato, in particolare gli ultimi due, hanno anche delle opzioni precise nei confronti di questa o quella scienza sociale più utile per sviluppare la riforma oppure no? Cioè, per dire, l'economia, il diritto, la sociologia? Grazie. Ah, scusa, Umberto, prego. Io sono molto colpito da questa confluenza sul modello prussiano. Volevo che sviluppassi un momento, non so se mi sono distratto io, qual è l'atteggiamento di Ten rispetto ai diritti fondamentali, diciamo. Cioè, in particolare riguardo alla rivoluzione alla dichiarazione dell'89, mi pare che Ten svolga una critica in termini di astrattezza, se non ricordo male. Ecco. Seconda cosa, la questione il legame fra questione sociale e politica coloniale di cui hai detto in Renan. Intanto mi pare che Renan entri un po' in quella linea di cui dicevo ieri, cioè dimostra quanto intrinseco al liberalismo della fine secolo sia questo problema dell'espansione coloniale. Mi ha colpito però questo legame con la questione sociale, se ho capito bene, perché in genere si dice che questa è stata una caratteristica del colonialismo italiano, che ha avuto proprio una sua figura particolare nel fatto che più è che essere un modello di espansione finanziaria è stata una ricerca di una soluzione alla questione sociale, da ciò anche il suo legame di partenza con l'emigrazione, che prima si era rivolta ai paesi d'America e poi invece sbocca nel tentativo di colonizzazione in Africa, perché se invece c'è anche in Francia, ma non so se vada oltre Renan, vabbè, allora sarebbe una cosa interessante vedere se c'è questa componente più generale anche in altri paesi europei. Grazie. Prego. Allora, rapidissimamente rispondo soltanto alle domande, ringraziando per gli apporti che sono stati dati da tutti a questa mia relazione, ripeto, molto provvisoria e a livello ancora di elaborazione. Dunque, quali sono i referenti sociali degli autori che ho trattato? Facile per Guizot, una aristocrazia fondamentalmente di tipo borghese basata su meriti che producono cultura e denaro. La democrazia intanto è legittima in quanto allarga la base di reclutamento di questa nuova aristocrazia. Per Michelet, Michelet è un democratico ed è innamorato del popolo, quindi per lui la rivoluzione deve essere l'elevazione del popolo. Lui ha questa immagine un po' mitica del popolo che lo incontra per le strade, che sente parlare, che si mescola a questo popolo per vedere se è ancora lo stesso dei giorni della rivoluzione. Quindi è un soggetto, direi, collettivo, difficilmente rappresentabile al di là di questo, per me, in questo stadio del mio rapporto con questo autore. Per quanto riguarda Renan, direi che forse il suo ideale sociale somiglia molto all'ultrauomo nicciano, calato però in una dimensione che esce fuori da una dimensione di lunghi e faticosi studi che lo hanno quasi ridotto senza corpo e tutto grande cervello. In fondo i grandi uomini che lui vede, le grandi intelligenze che lui vede nel futuro sono dei grandi contenitori di cervello in cui si è abolita qualsiasi pulsione naturale, per così dire. Per quanto riguarda Taine, direi che forse il suo ideale di uomo è la dedica delle origini della Francia contemporanea, cioè gli archivisti della Biblioteca Nazionale. Altro non saprei dire, però è molto bella quella dedica, soprattutto di buon gusto. Per quanto riguarda i diritti, per Taine, direi che in Taine non c'è una critica diretta ai diritti, scusa il bisticcio, quanto piuttosto c'è una critica all'uomo che doveva avere quei diritti. Secondo lui l'uomo francese era ancora medievale e gli si voleva dare dei diritti da uomo nuovo che lui non poteva assolutamente assumersi come responsabilità. Quindi è una critica, diciamo, psicoantropologica e non ai principi in quanto tali. Te non si misura mai su questo terreno, ho l'impressione. Per quanto riguarda le... Sì, c'è una critica puntuale, ma nel senso della strategia, ecco, sì. Sì, sì, appunto, lui questo lo dice spessissimo, ma è sempre, lui è arrivato a un certo punto, se no sarebbe la solita critica alla Burke, De Maistre, no? Invece non è questo il suo punto. Il suo punto è che non si può mettere un vestito addosso ad una persona che ancora non lo può indossare. Non è che i diritti quindi in sé non sono buoni. È che il momento storico, la zona, l'evoluzione nazionale non era ancora pronta per averli. Questo è il tipo di rapporto che lui si pone. Per quanto riguarda invece le scienze che mi chiedeva Pierangelo, qui avrei meno dubbi. Cioè per Renan fondamentalmente le scienze sono tutte, no? Quando lui parla dell'avvenire della scienza non vede una differenza tra scienze sociali e scienze della natura, ma anzi vede... il futuro è questa unità. Il suo amico Bartlot, per esempio, era un matematico, c'è questo scambio epistolare intensissimo in cui lui continuamente fa vedere questo mondo in cui finalmente c'è la fusione di queste scienze e tutte quante producono la riforma scientifica del mondo. Certamente lui badava molto alla linguistica e alla storia, che erano le sue scienze particolari, come invece per Taine la scienza che è importante la scienza storica, purché usi di quella psicologia come l'anatomia per la zoologia comparata, insomma, purché sappia trattare l'uomo come una pianta, eccetera, eccetera. Quindi per te direi che è proprio la storia la scienza sociale per eccellenza, in cui tutte le altre confluiscono e si riassumono. Per quanto riguarda Renan da recuperare, d'accordissimo, cioè io ho preso di Renan il Renan moralista, che come giustamente diceva Sorel è il Renan meno leggibile, ipocrita, che si manifesta ad un'opinione pubblica per conservare il suo successo. Poi il Renan vero invece è il Renan pazzo, il Renan che dice queste cose sconvolgenti. Allora quello è un Renan molto più affascinante, anche se io sarei abbastanza d'accordo sempre con Sorel che forse l'interesse di certe cose come il cristianesimo sta nella sua trascendenza, e raccontarci la vita di Gesù Cristo come se fosse la vita di un chiunque di noi forse non ha più grande interesse. In questo senso che la critica di Sorel coglieva, mentre è importantissimo quello che dici tu, perché ha attaccato indubbiamente le basi di un certo tipo di cattolicesimo, tanto in Francia, perciò era così odiato, quanto in Italia. Per quanto riguarda invece l'espansione coloniale, non saprei questo come è visto in Francia, questa visione. In Renan è chiarissima e penso che dipenda dalla sua cultura antica, cioè dal fatto che lui, studiando sempre cultura antica, veda appunto la colonizzazione ancora come la risoluzione del problema interno. In parte un po' c'è anche in Hegel, se si interpreta quel mare della società civile non soltanto come commercio ma anche come espansione coloniale della società civile moderna.